Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Caso Balotelli, anzi caso stadio chiuso per razzismo, come opportunamente ed efficacemente titolato stamattina da più di un quotidiano. Notizie, commenti, ricostruzione di una vicenda che ha ampiamente varcato i confini ed è diventata una questione di portata internazionale. Ci vorrà coraggio, ha dichiarato stamane Michel Platini, ma la decisione dell'UEFA, di cui Platini è presidente, ricordo, da ora in poi è di fermare le partite in caso di cori razzisti per 10 minuti e in caso continuino, nonostante gli annunci, di chiuderle, di farle finire. Lo ha detto per l'appunto stamane Platini a Roma, in Campidoglio, per la cerimonia di consegna a Roma della Coppa di Campioni, della Coppa di Champions, la cui finale si disputerà nella capitale, leggo dall'agenzia, il prossimo 27 maggio. Ci sono alcune dichiarazioni che vale la pena di ascoltare, poi ricostruiremo con l'aiuto di Marco Beninazzo del Sole 24 Ore come si è arrivati alla sanzione decisa nei confronti della Juventus, che non ha precedenti nella storia del nostro calcio e che è già stata appellata, nel senso che la Juventus, come sapete, ha fatto ricorso. Sentiamo questo commento del vicepresidente federale di Demetrio Albertini. Penso che i diretti interessati sono loro, normalmente viene colpito sempre un proprio compagno di squadra o un avversario. E fermarsi anche 5 minuti per far capire al pubblico il comportamento è inaccettabile in quel momento lì sarebbe un bel segnale. Questo è più o meno, come avete sentito, la linea Platini, si riferisce al fatto che toccherà evidentemente prima o poi ai calciatori farsi carico dell'interruzione di una partita. È una tesi che sostengo anch'io, di cui mi sono convinto un po' perché effettivamente mi chiedo come facciano i calciatori a continuare a giocare come nulla fosse in quel clima delirante, tipo quello di sabato sera a Torino, non l'unico ma certamente il più eclatante che mai si sia sentito in Italia. Lo trovo veramente molto poco solidale. Primo. Secondo, una riflessione che secondo me si potrebbe fare, che non ho ancora visto, letto o ascoltato da altre parti, ed è questa. I calciatori parecchi anni fa hanno deciso tra di loro, in realtà, che quando uno di loro restava a terra per un infortunio, chi fosse in possesso del pallone lo metteva fuori. Si è andati avanti per un po', poi qualcuno ha cominciato a marciarci, la storia la sapete più o meno, e sono stati prima alcuni allenatori, poi addirittura lo stesso sindacato calciatori a chiedere formalmente ai giocatori di non fare più questo, cioè di continuare il gioco e di delegare all'arbitro l'interruzione del gioco in caso di incidente di particolare gravità, comunque di delegare all'arbitro questa decisione. Direi che i giocatori se ne sono dati assai poco, per inteso, no? Perché mi sembra che stiano continuando, e secondo me non hanno nemmeno tutti i torti, a gestire un po' loro questo aspetto, e cioè ogni tanto, in Italia come all'estero, la palla a metterla fuori indipendentemente dal fischio arbitrale. Allora io mi domando se, poiché la palla sono capaci di metterla fuori quando... per un problema di incolumità fisica, mi chiedo come mai non gli sia ancora venuto in mente di farlo per problemi di incolumità morale, come indubbiamente mi pare si possa possa essere riferito a questa vicenda. Altri capitoli che fanno sempre parte di questa stessa disgustosa vicenda. L'opinione appena registrata di Ranieri sia sui cori che sulla squalifica al campo della Juventus. Non credo sia giusta, perché ci deve essere reiterazione, e lì invece è successo in una partita, la reiterazione significa più partite. Il comportamento è stato sbagliato, questo è un problema che ci portiamo dietro, in Italia ce lo portiamo dietro, perché parecchi oggi di voi avete scritto il fatto di Zorò proprio con l'Inter, no? Per cui siamo noi italiani, è giusto stigmatizzare, e sono vicino al ragazzo. Mi dispiace tantissimo. Se li sento, sì. Chiedo al capitano, a tutti, di andare verso il settore e di dire di smetterla. Io sono sempre per i cori pro la squadra e non contro gli avversari. Se si fanno dei cori è perché si vuole caricare la propria squadra. E allora perché sprecare il fiato per andare contro l'altra squadra? I ragazzi non è che si caricano sentendo i cori contro un'altra squadra. Era un collage di frasi di Ranieri di stamane. Ce n'è una, sinceramente, che non ho capito. Se li sento, cioè se li sento i cori e dico a un giocatore di andare, perché non la sento, cioè, ma che problemi può avere Ranieri sul piano acustico? Santa pazienza, non lo so, Ranieri e forse non solo lui. Il presidente della Juventus Coboli Gigli ha spiegato poco fa il perché del ricorso contro la giornata di squalifica. Rinunciare al ricorso sarebbe sbagliato, ha spiegato Coboli Gigli. Qualsiasi società deve far valere i suoi diritti, non per avere zero sentenze, ma per averne una che riterremmo più equa rispetto alle nostre colpe e più coerente con i giudizi del passato. Lo facciamo con molta tranquillità e se il ricorso non sarà accolto andrà bene lo stesso. È arrivato nel frattempo dal Sole, quindi è sceso dal piano come sempre, Marco Bellinazzo. Marco, buongiorno. Buongiorno. Allora, la prima domanda che mi verrebbe da farti è un'altra, però mi aggancio invece subito a questa, perché leggo da questa dichiarazione di Coboli Gigli: lo facciamo con molta tranquillità, se il ricorso non sarà accolto andrà bene lo stesso, vorremmo avere una sentenza che riterremmo più equa. Allora, più equa rispetto al passato, cioè al lassismo del passato, condivido completamente con Coboli Gigli, personalmente. Più equa rispetto a quello che dicono i regolamenti, io credo che la Juventus dovrebbe segnarsi con la sinistra per come l'è andata, o sbaglio, se prendiamo il tabellario dei delitti e delle pene. Finora questi episodi di razzismo sono stati puniti con delle semplici ammende, che è la sanzione base, si può... Può essere combinata una sanzione fino a 50.000 euro, che poi fondamentalmente è irrisoria come sanzione se commisurata all'incasso di una sola partita. In ogni caso, finora le istituzioni del calcio italiano si sono regolate in questo modo, cioè applicando sanzioni pecuniarie. Il quadro invece delle sanzioni previste dai regolamenti, visto che peraltro in questi giorni si è parlato tanto di regolamenti e dell'adeguatezza delle norme italiane rispetto a quelle applicate in ambito internazionale, in particolare dalla UEFA e dalla FIFA, prevedono sanzioni molto più gravi che finora le istituzioni, ripeto, del calcio italiano non hanno avuto il coraggio di applicare. Questo mi fa pensare che ci sia poi fondamentalmente la solita ipocrisia italiana di fare un gran rumore di fronte al caso eclatante, ma poi di avere poco coraggio nell'assumere le conseguenze, anche possibili sulla base, ripeto, di norme che sono già scritte. Non c'è bisogno di cambiare le regole, come pure Abete ha detto che farà il prossimo Consiglio federale. Io ho però la sensazione, avendo un pochino esaminato anche col tuo aiuto quali sono le leggi, quali sono i regolamenti attuali, che la montagna in realtà abbia partorito un topolino, nel senso che o si diceva questa è l'ultima volta in cui si tollera un episodio del genere e dalla prossima facciamo davvero scattare le sanzioni previste, oppure questa partita a porte chiuse è semplicemente ridicola in rapporto a quanto è accaduto. Lo so che vado controcorrente rispetto appunto a chi ricorre e non sarà difficile prendersi del giustizialista, però leggo le motivazioni del giudice sportivo. Allora, intanto ricostruisco anche qualche precedente con l'aiuto di Fabio Monti e del Corriere della Sera. Il primo stadio chiuso per razzismo in Italia fu il 17 maggio del 2005. Si giocò senza pubblico Verona-Salernitana di Serie B per i bue e gli insulti nei confronti di Colì, che giocava nel Perugia una partita precedente. Nel gennaio 2008 toccò ancora al Verona in C a porte chiuse dopo gli insulti razzisti a due giocatori della Pro Sesto. Che cosa si disse allora e che cosa si lesse nelle motivazioni? Che dopo anni e anni di comportamenti razzisti a Verona, in queste occasioni, il pubblico sano, chiamiamolo così, non era riuscito a sovrastare con i propri applausi e con manifestazioni di dissenso aperto rispetto ai cori razzisti il razzismo puro espresso dagli altri. Ora, la motivazione della sentenza del giudice sportivo di ieri dice che intanto i cori sono scattati nei seguenti minuti: 4, 26, 35, 41 e 42 del primo tempo, 11, 19, 22, 25 e 30 del secondo tempo. Se volete ve li giocate all'8, comunque questi sono i numeri. Sicché per 10 volte sono partiti cori, che poi se volete possiamo anche ricordare, anzi anche se ormai li sappiamo tutti. Ora, non solo sostenitori, vado avanti sulla motivazione, sostenitori della società ospitante in vari settori dello stadio, quindi non in uno soltanto, intonavano cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Valutata la gravità del fatto, per la pervicace reiterazione di tali deplorevoli comportamenti 10 volte, preso atto dell'assenza di qualsiasi manifestazione dissociativa da parte di altri sostenitori, che anzi si sono uniti al coro, aggiungo io, ovvero di interventi dissuasivi da parte della società, ma perché gli altoparlanti ci sono soltanto per dire il nome di chi segna il gol o il cognome e la curva si scatena urlando il cognome o viceversa, a Torino, a Roma, come da altre, tante altre parti. In questi casi gli altoparlanti invece non ci sono, non funzionano. Insomma, alla luce di tutto questo, delibera di sanzionare la società Juventus con l'obbligo di disputare una partita a porte chiuse. Io mi sarei segnato sulla sinistra, con la sinistra, dopo una motivazione del genere. Invece c'è chi ha fatto ricorso e magari invece poi verrà anche accolto. Che ne dici? Beh, che la Juventus è giusto che faccia ricorso, che quando abbiamo letto della penalizzazione, cioè appunto una partita da giocare a porte chiuse, ero convinto che fosse stata applicata questa sanzione dal giudice sportivo perché sussistevano le giustificazioni, tra virgolette, che hai ricordato tu, e cioè che appunto ci fosse stato nello stadio olimpico di Torino una parte del pubblico a fischiare i cori razzisti e quindi a dissociarsi dalle manifestazioni di razzismo, e che ci fosse stato un intervento appunto della società in quel momento, cioè durante la partita e quindi non il giorno dopo, a disincentivare i tifosi a continuare da questi comportamenti. E sono le esimenti, chiamiamole così usando un linguaggio giuridico, o appunto le cause di giustificazione che consentono al giudice di applicare una sanzione più blanda. Quando poi ho letto le motivazioni, ho visto che quelle esimenti non sono state riconosciute, anzi il giudice ha riconosciuto come aggravante il fatto che, certo, non ci siano state dissociazioni né da parte degli altri tifosi né da parte della società, mi sono alquanto meravigliato, soprattutto di fronte poi al quadro delle sanzioni che sono previste dal codice di giustizia sportiva. Che partono. Abbiamo detto giornata a porte chiuse. Cioè porte minima chiuse. Sanzione minima. Esattamente. Ora, nei casi si dice di particolare gravità, e mi sembra che qui ci siano tutti gli estremi della particolare gravità. Beh, se non ci sono stavolta. O appunto di pluralità di violazioni. Abbiamo visto che ci sono state cori praticamente dal primo all'ultimo minuto, fin quando Balotelli è rimasto in campo. Oltre alla sanzione legata appunto all'aspetto pecuniario, quindi a 50.000 euro nel caso classico, è possibile che vengano inflitte altre sanzioni, in particolare la sconfitta a tavolino della società e per esempio la penalizzazione di uno o più punti in classifica del club, o addirittura l'esclusione dal campionato nei casi ovviamente più gravi, o diciamo la non ammissione o l'esclusione da determinate manifestazioni, come potrebbe essere, non so, una semifinale di Coppa Italia che la Juve si accinge a giocare, per fare un esempio pratico. Quindi, come si vede, se si fosse applicato alla lettera il regolamento, la squalifica avrebbe potuto essere ben riportata, ben superiore, ben diversa. La domanda è molto semplice, anche molto cruda se vuoi, ma dato che qui mi sembra che stiamo un po' perdendo il senso delle proporzioni e l'indirizzo di casa, ma se io per strada incontro Mario Balotelli o un altro signore o ragazzo con il suo stesso colore di pelle e gli dico negro di merda, come gli hanno urlato per, non dico per ore, ma per tanti minuti, e in 10 riprese l'abbiamo appena preso, più altri insulti, forse anche peggiori. Se gli dico una cosa del genere, fermo restando che la mia incolumità è un problema mio, che poi mi vedo, ma Balotelli, ammesso che riesca a restare calmo e a controllare i nervi, ha il diritto o meno di denunciarmi, spero? Beh, evidentemente la querela in questi casi è quasi automatica, direi. Poi ci possono essere disquisizioni e la Cassazione finché si vuole, ma negro di merda è effettivamente diffamatorio e offensivo. Quindi, per cui non c'è dubbio. Tanto più che ci sono norme in Italia che, al di là di quello che può essere il mondo calcio, il mondo sportivo, prevedono per chi in pubbliche riunioni, in pubbliche manifestazioni, come appunto quella che può essere una partita di calcio, si lascia andare a manifestazioni diciamo che incoraggino forme di discriminazione razziale, può essere punito addirittura fino con la reclusione fino a 3 anni, che considerando le pene previste in genere appunto dal codice penale italiano è una sanzione abbastanza... Quindi mi costa caro se faccio una cosa di questo genere. Mi costa caro anche nel rapporto, come dire, civilistico, perché certo, ci sono anche a titolo personale. Se invece lo faccio in un manicomio a cielo aperto, come si è trasformato purtroppo... In un luogo di non diritto. Esatto, come si è trasformato l'altra sera lo Stadio Olimpico, tra l'altro, pensa che etichetta gloriosa. Di Torino invece io devo avere il diritto all'impunità e addirittura se qualcuno decide una sanzione collettiva, io mi ribello perché dico ma come? Ma in fondo questo metteva la palla sotto la suola e io ho il diritto di urlargli quello che voglio. In verità non sarebbe così, laddove innanzitutto le società sono responsabili non solo per... l'introduzione dei famosi striscioni o di altri strumenti, insomma, che rechino espressioni di discriminazioni, come recita il codice di giustizia sportiva, ma le società sono responsabili anche per cori e grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione, con quelle sanzioni che abbiamo ricordato prima. Inoltre, sul piano penale, visto che la responsabilità penale è personale, quindi non può essere applicata la sanzione penale ai tifosi juventini, lì dovrebbero scattare poi le indagini della procura e attraverso le telecamere dovrebbe essere fatto un lavoro, ma mi risulta che in parte è già iniziato un lavoro appunto per verificare individualmente i soggetti più facinorosi che si sono fatti riconoscere, che hanno avuto la malaccortenza di farsi riconoscere, certo, mettiamola così, certo, dalle telecamere. Quelli sono perseguibili penalmente a titolo individuale, però. Speriamo. Scrive ancora Fabio Monti. Molti tifosi juventini hanno fatto riferimento, ed è uno dei paralleli più gettonati di queste ore, agli insulti di un gruppo di tifosi interisti a Marc Giraud in Messina Inter 1-2 del novembre 2005. Allora, ricostruiamo i fatti. Il giocatore reagì prendendo in mano il pallone e chiedendo all'arbitro Trefoloni, buono quello, ma questo lo dico io, di sospendere la partita. Solo l'intervento di Adriano e Martins, che andarono ad abbracciare Giraud e mi ricordo, lo trascinarono, no? Fu una sequenza bellissima da una parte e terribile dall'altra, lo commisero a continuare. L'Inter se la cavò con una multa sia per la partita di andata, più il DASPO per alcuni ultra nerazzurri, sia per quella di ritorno. In ogni caso, il giudice sportivo di allora, Laudi, prese nota e scrisse e chiese un supplemento di referto, perché in realtà era stata una minima parte del pubblico, una piccola parte del pubblico, che era stata zittita dall'altra. Il presidente di allora, Facchetti, si scusò immediatamente col giocatore e con il pubblico già in spogliatoio a fine partita, cosa che non è accaduta in questo caso. E a San Siro al ritorno, quando accadde più o meno la stessa cosa, la maggior parte dello stadio si dissociò da questo. Morale, l'Inter se la cavò con 25.000 euro di multa e questo è stato il precedente più invocato, diciamo, per la solita guerra, no, figli e figliastri, perché se ho fatto di peggio io, no, ma tu quella volta hai fatto, eccetera. In realtà questo, a parer mio, non è il più pertinente dei riferimenti. Lo è se parliamo di razzismo in senso stretto o in senso di colore di pelle, ma se parliamo invece di razzismo vagamente diverso e di una pessima figura che l'Inter ha fatto, non è stata tanto questa, secondo me. Fu dopo un Inter-Napoli, nello stesso anno, credo, nel 2007, in questo caso. Il primo campionato ritorno in Napoli. Nel 2007, Serie A, ottobre 2007. La prima partita giocata qui a San Siro, tra l'altro i tifosi napoletani erano stati inibiti dall'accedere allo stadio e tra l'altro era presente in tribuna stampa in quel match, mi ricordo benissimo anche da napoletano, una particolare sensibilità su questo, i cori riservati, diciamo, da tifosi dell'Inter. I cori e gli striscioni, se non sbaglio. Napoli, Foglia d'Italia, era, no? Più o meno gentilezze di questo tipo. Sì. Uh-huh. E quel tipo di comportamento ha causato, se non ricordo male, vado a memoria, la squalifica della curva, la chiusura della curva dell'Inter nella partita successiva. Esatto. Tra l'altro, a questo proposito, ho visto proprio stamattina un bel titolo in prima pagina del Mattino di Napoli che invita il pubblico napoletano, visto che domenica prossima cioè Napoli-Inter, ad applaudire Balotelli, a non fischiare Balotelli, a fare un gesto, come dire, di riconciliazione. E sarebbe appunto importante se lo stesso trattamento fosse riservato alla tifoseria del Napoli quando torneranno, certo, in giro per l'Italia, perché ricordiamo che la giustizia sportiva ha iniziato questa stagione con estrema severità gli episodi di Roma-Napoli, i famosi incidenti sul treno, anche se poi lì la procura ha archiviato tutto, non si è capito bene fino in fondo, non si è chiarito bene fino in fondo quello che è accaduto, hanno portato però la giustizia sportiva, che fa il suo percorso rispetto a quella penale, a inibire tutte le trasferte per tutto il campionato ai tifosi napoletani. Gli episodi invece di razzismo che riguardano il colore della pelle, ma anche, come dire, la geografia o il campanilismo nazionale, sono stati fin qui tollerati, se non attraverso politiche con semplici ammende. Ed è chiaro che o le istituzioni del calcio, siano esse FIGC, Lega, ma anche la situazione italiana calciatori, prendono atto che ci sono questi fenomeni e decidono di combatterli seriamente, perché le sanzioni ci sono, ripeto, non è necessario ritoccarle, oppure si finisce come al solito per ritrovarsi con minime sanzioni, con fatti così gravi e sempre più gravi, perché non abbiamo fatto, in quanto italiani, una bella figura con il resto d'Europa, insomma, con questa vicenda, certo, Balotelli. In ogni caso, in quella circostanza, a proposito di coerenza e a proposito di persone o dirigenti o grandi presidenti autorizzate a scagliare la prima pietra, in quella circostanza, dopo quell'Inter-Napoli, quando venne chiusa per squalifica la curva dell'Inter per appunto manifestazioni razziste nei confronti dei napoletani, l'Inter fece ricorso. L'Inter fece ricorso, Mancini, allora allenatore, disse che si era trattato, se non sbaglio, aiutami a ricordare, di sfottò. Disse che si trattava di sfottò. La linea di confine tra gli sfottò, il razzismo e la violenza è sempre molto sottile ed è sempre, a mio avviso, sbagliato provare a distinguere. Ora, non si deve esagerare, visto che peraltro proprio in questi giorni sul razzismo è in atto una forte spaccatura all'interno del Consiglio d'Europa. D'Europa, insomma, l'Europa a Ginevra si è ritirata da questa conferenza Durban 2 sul razzismo, insomma. C'è la politica più alta che si sta occupando, più bassa secondo i punti di vista, visto come sta andando il vertice. E c'è una ricaduta nel calcio italiano di questi fenomeni che vanno, come dire, gestiti cercando di, da un lato, di non esasperare i singoli episodi, perché ci sono forme, voglio dire, di sfottò tra tifosi che vanno in qualche modo tollerate e comprese. Si finisce presto però per passare dallo sfottò, dall'invettiva a qualcosa di penalmente rilevante o comunque di rilevante dal punto di vista disciplinare, e ridurre quello che è accaduto a Torino a una questione di sfottò, anche quello che è accaduto a Milano in quel caso a una questione di sfottò e di invettiva. Sì, Mancini la ridusse a una questione di sfottò. Significa non voler vedere il problema. Sì. Ripeto, Napoli Fogna d'Italia non mi sembra uno sfottò, tantomeno per i toni che gli interisti usarono quel giorno. Non c'è coerenza nemmeno da parte di Moratti, perché per tutte gli eccessi della curva Asoroli definì contro il giocatore, ma non razziste, operando un distinguo di un po' troppo sottile, che oggi potrebbe essere, e anzi viene riusato e riadattato nei confronti di Balotelli. Non c'è nulla di razzista, è solo perché il giocatore provoca, no? Con tutto quello che gli hanno urlato. Quindi io credo che la prima pietra davvero in questa materia la possano scagliare in pochi. Grazie allora Marco Bellinazzi. Grazie a voi per questa sua ennesima partecipazione. Niente da dire, molto da fare, ha scritto stamane Roberto Becantini sulla Stampa. Un turno di squalifica continua era il minimo, ma proprio il minimo, per la vergogna del sabato notte juventino. Gli insulti di natura razzista non hanno diritto di cittadinanza da nessuna parte, meno che mai in ambito sportivo. E più avanti, bene ha fatto il giudice sportivo ad anticipare il verdetto, serviva un segnale, il guaio è che servirebbero altre cose, su tutto un briciolo di coerenza. Il Moratti che avrebbe voluto ritirare la squadra è per caso la stessa persona, eccetera, eccetera, e di questo abbiamo parlato prima. Il finale, Abete, Abete pensa a leggi più severe, meglio tardi che mai. È triste osservare come ai blog ci si continui ad accapigliare sul perché a voi solo una multa e a noi invece le porte chiuse. La tragedia italiana è il cavillo, il distinguo, il rapporto tra reazioni immediate e gestione a lungo termine. La lotta al razzismo ha bisogno di schiene diritte. Per questo il ricorso della Juventus è un pericoloso passo falso. Antonio ha chiamato da Rimini, buongiorno. Buongiorno, salve. Sono un tifoso della Juve, sì. E sinceramente quello che è successo sabato mi fa vergognare un po', anche perché lavoro con questa gente e un po' comunque mi dispiace. Solamente che l'unica cosa che mi dispiace è che secondo me nel mondo del calcio c'è ancora un velo di ipocrisia, perché a fine partita tutti si sono, almeno i calciatori, si sono sdegnati, però nessuno ha avuto il coraggio di fermare la partita. Ma poi non si sono mica sdegnati tanto ancora a fine partita, ci hanno messo un altro po'. Però la cosa che mi dà più fastidio, secondo me, è che gente della parte opposta faccia la morale quando, certo, quando anche loro non sono stati tanti coerenti prima. No, non c'è dubbio. Tutto qua. C'è dubbio. Su questo io sono d'accordo con lei. Giorgio da Prato, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Galanzini. Dica. Mi aiuti a capire una cosa. Ma il giudice Toselle, che è stato così attento e tempestivo nel colpire anche troppo blandamente, secondo me, quello che di odioso che è successo l'altra sera, ma lo stesso giudice tutti i lunedì da qualche anno a questa parte, dove si trova? Forse sulla luna, dico io, quando puntualmente arrivano i resoconti di accoltellati attorno allo Stadio Olimpico di Roma, perché fermo restando l'odiosità di quello che è successo l'altra sera a Torino e in altri stadi, io personalmente, se devo essere oggetto di qualcosa, preferisco essere oggetto di un insulto razzista che non di una coltellata, perché l'incolumità fisica è sempre leggermente più da tutelare, a mio parere, dell'incolumità morale. E allora io dico, come mai sempre questo ignorare i fatti altrettanto, se non più ignobili, che da anni succedono a Roma? Giorgio, la domanda è mal posta. Certamente ha sbagliato indirizzo, nel senso che non è a giudice Toselle che deve chiedere conto di queste cose, deve chiedere ai responsabili dell'ordine pubblico, e credo che il problema sia molto più politico e molto meno sportivo. Toselle non c'entra niente, perché non ha mai letto certamente di un accoltellato in un referto arbitrale, visto che tutto questo accade ben fuori dalla giurisdizione dell'arbitro. Quindi io ho sentito con piacere questo tonetto da grillo parlante, però le garantisco che ha completamente sbagliato tema e paragone. Ferma restando la gravità di quello che accade all'Olimpico di Roma, intorno all'Olimpico di Roma da altri punti di vista, però. Vladimiro da Grosseto, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Senta, io sposo in pieno e sottoscrivo al 100% l'intervento di Gigi Simoni, ex allenatore dell'Inter. Non si può tacciare di essere juventino. Io penso a quello che è successo con Ronaldo, l'ultimo scudetto tolto all'Inter, cosiddetto sul campo. Io penso che Gigi Simoni abbia perfettamente ragione. Condannando ogni forma di razzismo, anche quando si tratta di offendere un ragazzo, una persona che ha colore di pelle diverso, però fermo restando il fatto che anche il ragazzo ha delle sue colpe, e non dalla partita di domenica, ma da altre partite, penso alla Roma e anche alle partite internazionali, in cui si permette atteggiamenti che un po' esasperano anche gli animi. Io dico che Simoni ha perfettamente ragione quando dichiara che il ragazzo va istradato, il ragazzo va educato, non va giustificato come ha fatto Moratti. Questo ragazzo va preso e va estradato in maniera decisa. E questo, è un campione, non ha questo, e questo, mi scusi Vladimiro, Valdimiro, è un aspetto del problema. Dopodiché, visto che la sua società, il suo allenatore, eccetera, eccetera, tardano ad educarlo, e questo è un dato oggettivo, perché i suoi comportamenti continuano a non essere certamente quelli che ci si aspetterebbe da un ragazzo così giovane e così bravo e così forte. Dopodiché cosa si fa? Visto che non ci pensa la società, gli urliamo negro di merda uno stadio intero per tutta una sera? Con gli atteggiamenti che ha Balotelli, se li avesse Pato, vabbè, se li avesse qualsiasi altro campione, io li farei, lo fischierei Lo fischierebbe. Lo fischierei, certo, lo fischierei sonoramente, ma certo, qualsiasi, indipendentemente dal colore della pelle. Non c'è un salto. Poi, se il discorso si va sull'offesa, deve valere l'offesa a un uomo di colore e deve valere l'offesa a qualsiasi altro uomo, anche all'arbitro, arbitro cornuto e a qualsiasi altro giocatore, bianco o nero che sia, l'offesa non deve valere in nessun campo. Certo. Questo è quello che dico io. Certo, che è semplicemente spaventoso. Guardi, per provare a rifarmi la bocca io e a rifarla alla parte migliore di chi è in ascolto, dopo una telefonata del genere, provo a leggerle un paio di mail, alcune delle veramente decine di mail che sono arrivate e che invece ci aiutano a riflettere. Guardi, questa sembra fatta apposta per lei e invece è arrivata ieri dopo alcuni dei primi interventi di ieri, firmata Francesco Enrici, e dice: sono spaventato dalle cose che anche il suo pubblico riesce a dire. Immagino cosa non pensino quelli che seguono altre trasmissioni di ben più basso livello. La nazionalità di Balotelli è purtroppo il vero cuore del problema. Il coro "non esistono negri italiani" tra i tanti a lui dedicati spiega perché Muntari e Vieira non ricevono lo stesso trattamento. Perché? Perché si tratta di razzismo della peggior specie, in quanto la questione colore è aggravata dalla nazionalità. Temo che sia un equivoco in cui è caduto anche il buon Gigi Simoni, con il quale io sono d'accordo in 9 casi su 10, certamente non in questo, perché mi pare che abbia preso una scorciatoia un po' tanto semplificante, insomma, per valutare questo caso, insomma, questo per valutare l'accaduto. Fedele ha chiamato da Verona, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. Io volevo semplicemente farle dire che effettivamente, beh, quello che ha detto lei ha perfettamente ragione e ci mancherebbe, siamo tutti contro il razzismo, sono interista da sempre, però il grave di quello che è successo sono due, secondo me, le cose fondamentali. Sabato sera era tutto lo stadio. Certo. Non era una curva, non era una fettina, non erano 10 imbecilli, 20 come abbiamo anche a Verona, no. Che, per carità. Il problema è che era tutto lo stadio, questo anche la lezione che daranno, come probabilmente mi auguro che diano qualsiasi società, Inter per prima se siamo noi, ci mancherebbe, va benissimo, perché se oggi è tutto lo stadio domani sarà tutta la città. Il problema secondo me però è, e mi perdoni perché lei fa parte della stampa, perché lei, è vero, lei contro il pubblico che non è andato via, contro i giocatori, ma i giornalisti? Secondo lei un giornalista credibile come uno che lei l'ha nominato ieri, l'unico che è andato via, che si è sentito offeso, umiliato, ha preso e andato via. Ma secondo me dopo partita, dopo, non ci dovrebbe essere stato. Cioè dire ai giornalisti avessero preso posizione, dire non parliamo della partita perché veramente siamo schifati, chiudiamo e andiamo tutti a casa con le nostre famiglie, secondo me sarebbe stato un bel gesto. Sono completamente invece, d'accordo voi con per lei. Per primi, voi, dico voi perché lei è giornalista, certo, ci siete passati sopra. Fare la retorica dopo è di una tristezza ancora più infinita del razzismo stesso. La saluto. Sì, non è retorica però, sono denunce a scoppio ritardato, ecco, almeno questo a qualcuno, non a tutti, ma a qualcuno lo conceda. Sulla prima parte invece del suo intervento sono purtroppo, ahimè, completamente d'accordo. Ve ne leggo un'altra, questa mail è firmata Laura Liberti, arriva da Pisa. Ed è un'altra che c'entra il problema, ed è un'altra delle risposte che delego volentieri a chi è più bravo di me in questo caso, per l'appunto a rispondere a gente che continua la famosa storia del dito della luna, Gigi Simoni compreso. C'è il dito che indica e su c'è la luna, però, ma tutti guardano il dito. Scrive Laura: forse il parallelo è un po' forte, ma mi sembra di essere tornata ai primi processi per violenza sessuale, quando Tina Lagostena Bassi si ritrovava a dover difendere le violentate contro i violentatori. Allora la scusante alla violenza era che la donna in questione indossava la minigonna o provocava, in ogni caso se l'era voluta. La tragedia vera è che sembra non ci sia cultura che tenga, istruzione superiore in grado da far da argine a commenti del tenore di quelli odierni. Possono provenire indifferentemente da chiunque. È disarmante e mi abbatte più di quanto vorrei. Lo immagino bene. Roberto, Modena, buongiorno. Buongiorno, Granzini, dica. Complimenti. Volevo dire questo, guardi, io sono più di tutti al di sopra delle parti, in quanto fino all'ultimo derby ero un blando tifoso romanista. Adesso ho deciso che la parola tifoso mi darebbe un po' fastidio, per cui non sono più tifoso di niente. E su questo episodio qui io sono anche un volontario Caritas, per cui la quella che è la discriminazione, mi crede, la conosco molto bene, perché noi stessi spesso siamo oggetto di epiteti perché aiutiamo gente del colore diverso. E noi operiamo nelle parrocchie, quello che non ci sentiamo dire al di fuori della parrocchia per questa cosa, per questi assembramenti di gente affamata, non glielo posso raccomandare, per cui credo di essere al di sopra delle parti, per cui assolutamente il razzismo è una cosa vergognosa tuttora persistente in Italia. Poi però guardo l'altro aspetto, bisognerebbe che i dirigenti, gli allenatori, i giornalisti e tutti quanti cominciassero a far capire a questi giocatori che sono dei privilegiati dalla vita, no? E che il loro comportamento è significativo per i giovani, ma che la smettono. Balotelli poi è la bandiera della maleducazione, della strafottenza, no? Per cui devono capire, sono dei privilegiatissimi dalla vita, dalla sorte, certo, ma che la smettano con certi atteggiamenti e facciano in modo di aiutare a riportare il calcio ad essere uno sport, perché di sport anche oramai lì c'è rimasto ben poco con queste Non confondiamo però le partenze con gli arrivi, cioè oggi in questi giorni stiamo parlando di altro. Dopodiché, per una bella morale ai calciatori, io sono d'accordo con lei che ogni giorno dell'anno è buono. Torniamo in onda e proviamo a ripassare la storia come ogni giorno a quest'ora, con l'aiuto di Nicola Filippone. Sembra ieri. 21 aprile 1960. Il Real Madrid ipoteca l'accesso alla sua quinta finale consecutiva di Coppa dei Campioni, battendo per 3-1 al Santiago Bernabéu i rivali del Barcellona nella semifinale d'andata. Protagonisti della serata, i soliti Di Stefano, autore di una doppietta, e Puskas, che realizza il gol del 2-0. Al ritorno, le Merengues si imporranno al Camp Nou con lo stesso punteggio, per poi trionfare nella finale di Glasgow, battendo per 7-3 l'Eintracht di Francoforte. Il Barcellona si vendicherà l'anno successivo agli ottavi di finale, infliggendo al Real la sua prima eliminazione dalla Coppa dei Campioni. Vera storia. Matteo, provincia di Varese, buongiorno. Sì, eccomi. Dica. Grazie per avermi richiamato. Solo una dolce nota. Ieri ero a vedere una semifinale di pallavolo, Yamamai Chieri. Lì il fair play è di casa, la gente è educata, si sono mamme con bambini che arrivano, si divertono e godono. E alla fine della partita il primo applauso è andato agli sconfitti. Le assicuro che non era buon cuore, ma era veramente sentito. E lei si è... Grazie a lei. Grazie a lei, e non ho dubbio che si sia stropicciato gli occhi ascoltando e vedendo cosa accade invece altrove in questi giorni. Alberto ha chiamato da Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno dottore, grazie per l'occasione. Sì. Io ho detto che mi sia perso qualche passaggio per la strada, però ho sentito le parole di Ranieri su quello che ha detto, se dovessi sentire cori del genere e via discorrendo. Però non riesco ancora a capire come la società Juventus faccia un ricorso per quanto riguarda il discorso della partita a porte chiuse, quando una decina di giorni fa, nell'occasione della partita contro il Genoa per la contestazione sulla rete e tutto il resto, è vero che sono due episodi totalmente differenti, però io avrei soprasseduto più a fare un ricorso in questo caso qui e aver dimostrato un po' più di signorilità per questa cosa, anzi punire l'atteggiamento dei propri tifosi. E magari forse meritava di più ricorso l'episodio di 10 giorni fa contro il Genoa. Ma no. Lei che ne pensa? Penso che sia meglio che non gli dia l'idea, perché dato che mi sembra un periodo di non felicissimo di scelte, di decisioni. Sto pensando anche a Cannavaro, non vorrei che gliene aggiungesse un'altra, che sinceramente non mi sembrerebbe nemmeno quella Tra le più felici. Sentiamo Papì, ancora chiamato da Bologna, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Allora, io volevo un po' collocarmi sull'accusa di Balotelli. Sì. Allora, per dire prima di tutto che non condivido gli atteggiamenti di Balotelli, in quanto li considero tutti quanti di maleducazione. Però comunque non si può, gli italiani, io sono straniero, gli italiani devono smettere, quando non si va d'accordo con uno straniero, tipicamente nero, gli si va subito addosso con le parole tipo negro di merda. Mm-hmm. E dopo tutti quanti vanno a dire che io non sono razzista, perché quello mi ha provocato. Se io ti provoco, sei italiano, te lo prendi con quello che ho fatto, ma certo. Non puoi saltarti e per prendertelo con tutta una razza, volevo dire. E poi, dall'altro, se vedi un calciatore famoso di colore nero, esce fuori, viene chiamato calciatore di colore o giornalista di colore o operaio di colore. Invece, se siamo neri, bianchi, io non vedo, dobbiamo prima di tutto smettere di chiamarci ragazzi di colore. Noi siamo dei neri e ne siamo fieri. Vogliamo essere chiamati neri, un ragazzo nero, un calciatore nero, se non si può fare a meno di richiamare il colore. Per me basta dire una persona. Ok, grazie papì. Guardi, lei mi ha fatto venire in mente che tra le appunto decine di mail ricevute e lette tra ieri e stamane ce n'era una che mi aveva colpito e lei me l'ha richiamata, che è questa. È la lettera di un non vedente di Piacenza, si chiama Antonio Gagliotto e ha scritto: ho sentito la trasmissione di ieri per ben due volte, sia in diretta alle 14 che questa notte in replica. La cosa che ho notato e profondamente condivisa e apprezzata è stata l'indignazione che lei provava a sentire certi interventi beceri, eccetera eccetera. Ieri lei ha letto il messaggio di un tifoso che, a sentire i cori razzisti verso Balotelli, se n'è andato chiedendo alle forze dell'ordine di fare qualcosa. Io lavoro con persone dell'arma e mi spiace terribilmente sentire alcuni che hanno come suoneria il telefonino. Cita anche la canzoncina, ma insomma diciamo vecchi cerpami fascisti. Quindi secondo me il problema parte di lontano e si annida anche in una certa politica che, ahimè, ogni tanto ci fa da guida. Resta il fatto che il razzismo è l'espressione peggiore che la barbarie umana pratica. Ma perché lei mi ha fatto venire in mente col suo intervento questa mail? Perché addirittura questo signore Antonio Gagliotto da Piacenza, non vedente, conclude così la sua mail: io in questi casi, mi creda, mi sento fortunato, perché da cieco il colore della pelle per me è assolutamente identico e quindi mi è impossibile fare distinzioni. Ha chiamato Matteo dalla provincia di Pesaro, buongiorno. Salve, buon pomeriggio signor Garanzini. Sottopongo una piccola provocazione. Allora, se il coro fosse stato questo, allora, brutto birichino, Balotelli brutto birichino, allora, questo coro, scusi l'intonazione, sarebbe stato ridicolo. La forma è diversa del messaggio, però i contenuti sono simili. Allora, io vorrei contestualizzare il messaggio che i tifosi hanno portato al giocatore, alla situazione insomma in cui il coro si è generato. Insomma, Balotelli è un giocatore che guadagna fior di milioni, 10-20 milioni di euro. Cioè, no, ne guadagna uno, se è per quello. Cioè, lei poi continui pure con le sue fesserie, ma ne guadagna uno. Poi il suo contratto verrà sicuramente. Beh, ma al momento ne guadagna uno, cioè poi okay, vabbè, non discuto. Un giorno sarà. Io non sono assolutamente razzista, perché ho un sacco di amici di colore, però di fronte a questo messaggio, di fronte a questo coro, mi sentivo partecipe, perché il giocatore è assolutamente irritante nei suoi atteggiamenti. E Gigi Simoni ha voluto, probabilmente, ecco, con una forma sicuramente che si addice al personaggio, ha voluto di nuovo chiarire questa cosa. Guardi, le assicuro che il razzismo, secondo me, non c'entra proprio, ecco, non c'entra, perché Matteo Ferrari, esattamente un giocatore di colore, lo stesso di nazionalità italiana, non è stato mai... Scusi Matteo, ma visto che lei sta facendo questi ragionamenti così profondi, è partito pure con la canzoncina, ma perché non è così difficile provare a varare qualche altro coro dedicato a Balotelli che non chiami il causa il razzismo? Ma è un'impresa così impossibile? Io non so... No. Sono basito veramente, sono degli interventi da dare testate nel muro. Beh, anche se l'intervento principale da testate nel muro rimane sempre un intervento della politica. Il presidente del Juventus Club Montecitorio, Maurizio Panizza del PDL, che ha dichiarato quanto segue: non è giustificato enfatizzare eventuali cori razzisti, che se esistenti ma in tribuna centrale non sono stati nemmeno sentiti dai dirigenti che non ne hanno affatto per dopo partita, sono deprecabili, comunque ingiustificati, lascio stare la sintesi e tutto il resto, ma non tali, questo è il grande finale, ma non tali da rovinare una festa dello sport che allo stadio di Torino è apparsa a tutti evidente e splendida. Ripeto, una festa dello sport che allo stadio di Torino è apparsa a tutti evidente e splendida. Onorevole Maurizio Paniz, PDL, presidente dello Juventus Club Montecitorio. Grazie di esistere, grazie a Flavio Suardi in redazione, grazie a Peter Bescapè in regia. Appuntamento a domani.